Avete ascoltato i brani Pulsaciones numero 4 e Deus Shango, quest'ultima eseguita assieme al sassofonista Jerry Mulligan. Ascolterete adesso Invierno Porteño. una parentesi italiana per Astor Piazzolla. La prima interprete in Italia è stata l'attrice e cantante Mondaldini, ma con un successo molto ristretto di critica. Successivamente ci fu Mina, che nel 1972, in una trasmissione televisiva del sabato sera, eseguì alcune canzoni assieme al maestro, una delle quali fu Ballada para mi muerte, che non è mai stata poi pubblicata su disco, ma che è un grosso successo di YouTube, e tra parentesi più entusiasti sono proprio gli argentini. Molti anni dopo, la rivale storica di Mina, cioè Milva, fece con Piazzolla una collaborazione molto più approfondita e estesa, con dei concerti fatti in Francia e in tutto il mondo, e un disco live registrato a Parigi. Da questo album potrete ascoltare il brano che fa anche un po' da colonna sonora a questa trasmissione, che è stato inserito anche in alcune colonne sonore scritte da Piazzolla, una delle quali era per il film di Marco Bellocchio, Enrico IV. Il brano è Oblivion, nella versione francese cantata da Milva, J'oublie. La terza variante italiana ci è presentata da quello che fu il partner di Milva sulle scene nella produzione dell'opera da tre soldi diretta da Giorgio Strehler, e cioè Domenico Modugno, che vi presenterà la versione italiana di Ballada para un loco, e cioè ballata per un matto. Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía, me pondré por los hombros, te abrigo todo. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deja de soñar, ah, me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya está. Llega el día, no lloré. De madrugada guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, j'oublie jusqu'à notre amour. Déjà dans la nuit, en bateau pas, s'en va quelque part, des gens se séparent. J'oublie. Le violon nous réjouit, notre mélodie ne joue plus. Tant on sépare dans son jeu contre jeu, tout devient floué. D'une nuit qu'on j'oublie jusqu'à notre amour. Le temps semble court, tes doigts qui parcourent ma ligne de vie. Per le strade guardando il cielo e aspettando che accada niente, quando improvvisamente da dietro un albero spunto io, strano miscuglio fra l'ultimo dei vagabondi e il primo astronauta in viaggio verso Venere, mezzo melone sulla testa, le righe della camicia dipinte sulla pelle, due mezze suole incollate sotto i piedi e una bandierina di tassì con su scritto libero in ciascuna mano. Tu ridi, ridi perché solo tu riesci a vedermi, tu e i manichini che mi fanno l'occhietto dalle vetrine. E mentre tutti i semafori segnano tre luci azzurre per lasciarmi passare, un po' ballando e un po' volando, io mi avvicino a te, mi levo il melone dalla testa per salutarti, ti regalo una bandierina e ti dico: lo so che sono un matto, matto, matto. La luna è un palloncino che io regalo a te. Tieni ben stretto il filo perché se sfuggirà la luna sulla terra mai più ritornerà. Lo so che sono un matto, matto, matto, da un nido di colombi guardavo la città che ho vista tanto triste e son venuto giù per regalarti un sogno ed un sorriso in più. Matto, matto, matto, quando fa notte cala il buio dentro te, dal buco della serratura entrerò con un trombone, una poesia per risvegliarti, anima mia. Matto, matto, matto, come un acrobata impazzito salterò sopra l'abisso del tuo seno, fino a che io sentirò che impazzirai insieme a me. Amami così, matto, matto, prendi la tenerezza del pazzo che c'è in me. Andiamo sulla luna, che è un palloncino blu, poi taglieremo il filo per non tornare più. Amami così, matto, matto, rivivere con te tutte le mie follie, la magica pazzia di innamorarsi ancora, meraviglioso amore che non finisce mai. Pazzia di innamorarsi ancora, la la la la la la la la la la la la. Viva, viva i pazzi che inventarono l'amore, viva, viva i pazzi che inventarono l'amore. We'll be right back.